que tu sei dato a Russo? Si che era un capitano macacca! Si che era Giulio, ha rotto un gatto macacca! Si che era Giulio, te ne sono! Si che era Giulio, hai un padre da sonno! Si che era Giulio, fai pagliata! Si che era Giulio, tu vuoi un pao! Che la Giulio non più fermo, che la Giulio così così baraglia, che la Giulio così non fermo, che la Giulio così sì, che la Giulio con sua macchina alle persone, che la Giulio con sua macchina in luogo alle persone, che la Giulio così sua macchina ho visto a sonna, che la Giulio da un po' di cao, che la Giulio che la Giulio è cao. Si che la Giulio, mi ha potuto dare il figlio. Si che la Giulio, voglio mi dare un figlio, un figlio. Voi avete fatto un po' di mani a palanca, no? Se così che la Giulio, guarda un figlio, no? Se non guarda un figlio, guarda un figlio, no? Voi avete fatto un po' di mani a palanca, no? Se non guarda un figlio, no? Eu respeito esse cara muito elevado. Eu gosto muito dele. Eu não tô dando certo com ninguém. Eu não quero ser aqui com a ideologia. Os caras estão no ponto certo. Eu respeito muito. Desculpa essa coisa, a sua ideologia. Eu participo de suas ideias. Se quer ajuda, muito do Pedro Oli. Muito obrigado por ter estado até aqui. Tchau.